Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali. Dal 2012 vi parliamo della galassia animalista, antispecista e vegan e vi raccontiamo i fatti, le opinioni e la cronaca guardando il tutto da un punto di vista animale. Siamo arrivati alla puntata numero 511 nella quale parleremo di dove non volano le aquile. Le grandi vittime del cambiamento climatico, incidenti stradali di laboratorio e la scommessa dei comitati etici. Speriamo di avervi incuriositi. Cominciamo questa puntata con una notizia che prendiamo dal Corriere.it del 10 novembre scorso. Dio, patria, famiglia e corrida. Queste sono le parole d'ordine della destra tradizionalista alle quali si è affidato Santiago Abascal, il leader del movimento Vox, che alle elezioni parlamentari in Spagna ha ottenuto il 15,10% dei voti. Le stesse parole d'ordine che hanno decretato il successo di tanti altri partiti sovranisti nel resto d'Europa. Parliamo di Santiago Abascal in questa trasmissione animalista, antispecista e vegan, perché Abascal ha proposto l'abolizione delle norme che restringono la pratica della corrida e della caccia. Se quest'ultima è interpretata in chiave ambientalista, cioè i cacciatori proteggono le attività umane e preservano l'equilibrio della natura, la corrida è invece vista come patrimonio culturale nazionale che va difeso dagli attacchi dei progressisti radical chic. Abascal è solito girare con una pistola Smith & Wesson sotto la giacca. Sempre in Spagna non sfonda invece il partito animalista del PACMA, partito animalista contra el maltrato animal, che con un risultato dello 0,94% resterà fuori dal congresso. Prendiamo la seconda notizia della settimana da ilsecolo19.it dell'11 novembre scorso. A causa della prolungata siccità, almeno 200 elefanti sono morti di fame nel Parco Nazionale di Hwange, il più grande parco turistico dello Zimbabwe, al confine con il Botswana. Lo confermano fonti ufficiali. Abbiamo perso molti elefanti a causa della fame, non c'è cibo, stiamo aspettando disperatamente che arrivi la pioggia, ha detto Tinashe Faravo, portavoce della National Parks and Wildlife Management Authority dello Zimbabwe. Solo per il parco di Hwange stiamo parlando di circa 200 individui. Altri elefanti sono morti poi a causa della siccità nel parco nazionale Mana Pools, nel nord del paese, e dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Gli ambientalisti hanno trasportato migliaia di balle di fieno a Manapouls per alleviare le carenze alimentari che hanno anche causato la morte di zebre e bufali. Gran parte dell'Africa australe sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi due decenni, che in Zimbabwe ha rovinato le colture di base come il mais, lasciando almeno 7 milioni di persone, circa la metà della popolazione del paese, dipendenti dagli aiuti alimentari esterni. Ecco, quando magari parliamo di cambiamenti climatici, si fa come esempio Venezia, che potrebbe scomparire sotto le acque. Molta meno impressione invece purtroppo sembrano fare questi 200 individui animali, 200 elefanti ormai perduti per sempre. Notizia della settimana la prendiamo direttamente dal sito internet peta.org del 31 ottobre 2019. La PETA è l'associazione animalista più importante degli Stati Uniti d'America e riguarda l'utilizzo di animali vivi nei cosiddetti crash test, cioè nei test sulle conseguenze degli incidenti automobilistici. Oggi in Cina, nonostante l'esistenza di sofisticati modelli senza animali, gli sperimentatori continuano a legare sui seggiolini delle auto animali vivi e terrorizzati, soprattutto cani e maiali, e a sbatterli contro i muri fino a quando i loro corpi sono sanguinanti, contusi, mutilati e naturalmente fratturati. I dati ottenuti da questi orribili esperimenti sugli animali non sono applicabili alle vittime umane di incidenti stradali per la diversa fisiologia che ci contraddistingue. I metodi di ricerca non animale più avanzati utilizzano studi clinici sull'uomo, modellistica computerizzata, imaging tridimensionale e manichini sofisticati. Ci sono anche ricercatori che utilizzano cadaveri umani e realtà virtuali. Nel XXI secolo tutte le case automobilistiche del pianeta avrebbero già dovuto adottare questi metodi. Ma non è solo un problema cinese, perché anni fa la PETA condusse una campagna simile contro la General Motors, che contribuì a mettere la parola fine alla pratica diffusa nell'industria automobilistica statunitense di far morire animali vivi sbattendoli ad alta velocità contro degli ostacoli per valutare le conseguenze della alta velocità stradale. La realtà vissuta da milioni di animali all'interno dei laboratori scientifici di tutto il mondo è inaccettabile, l'abbiamo denunciato più volte. Per prendere posizione contro questo orrore è possibile firmare una petizione della PETA che evidenzieremo nel nostro blog restiamoanimali.it. Such a name. parliamo ancora di sperimentazione animale perché qualcosa si sta muovendo anche in Italia, dove recentemente, quest'estate, è stato istituito un gruppo di lavoro per la promozione dei metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici da parte del Ministero della Salute. Di questo gruppo di lavoro fa parte, fra gli altri, anche il professor Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto, il filosofo degli animali, lo abbiamo chiamato noi, è un collaboratore storico e continuativo della nostra trasmissione. E professor Lombardi Vallauri, che cosa sta succedendo a Roma, che cosa state facendo? Beh, come hai detto, con decreto del ministro Giulia Grillo, nel giugno 2019 è stato costituito presso il Ministero della Salute il gruppo di lavoro per la promozione dei metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici. Questo ai sensi del decreto legislativo del 2014 che recepisce la direttiva 2010 dell'Unione Europea. Il gruppo deve riunirsi mensilmente per un anno presso la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, direzione che io non conoscevo. È composto di 5 rappresentanti di enti pubblici come il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità o la Conferenza dei Rettori e da 10 esperti scelti in base a un ventaglio ampio di competenze. Io sono stato scelto, suppongo, per i miei scritti di bioetica animale. Nelle riunioni, svoltesi finora in settembre e in ottobre, il gruppo ha stabilito alcune linee di intervento necessarie a realizzare gli obiettivi previsti dal decreto ministeriale. 1. Stato dell'arte della sperimentazione animale in Italia. Quali progetti approvati e quali risultati? Stanno tutti presso il Ministero. 2. Lo stato dell'arte dei progetti alternativi o approvati o approvabili, non ancora realizzati. 3. Divulgare anche tra gli studenti e i ricercatori, soprattutto i ricercatori, i metodi alternativi, perché molti ricercatori perdono il lavoro e non sanno cosa fare. 4. Promuovere, è ovvio, il finanziamento di progetti alternativi. In particolare alcuni dei membri del comitato lamentano la scarsità dei finanziamenti o l'essere indirizzati verso enti che ne fanno un uso discutibile. 5. Mettere in luce gli aspetti bioetici fondamentali e anche tutto quello che c'è nel diritto positivo, che non è poco, e diffonderli nella coscienza sociale. Tutto questo deve diventare un documento che verrà consegnato al ministro e che verrà reso pubblico con particolari cautele. Per quanto riguarda l'ipotesi della sostituzione completa, del replacement, uno dei tre R famosi, ci sono nel gruppo sia alcuni sostenitori della sostituibilità integrale, sia alcuni che invece ritengono, almeno in parte, non sostituibile la sperimentazione stessa. La mia opinione personale, già espressa in pubblicazioni e in trasmissioni di Restiamo Animali, è che il concetto di insostituibilità non sia scientifico se non in riferimento all'attualità e a tempi brevissimi. La storia della scienza e della tecnica è una storia di sostituzioni. Le carrozze vengono sostituite con le automobili, insomma, è tutto. La sostituzione dei metodi con uso di animali è, per me, un'esigenza sia etica che scientifica, sempre più recepita anche dal diritto positivo e dalla coscienza sociale. Il diritto, per esempio, stabilisce il principio di sussidiarietà, non fare uso di animali quando è possibile non farne uso, e quindi accolla a chi propone progetti con animali l'onere della prova che non ci sono alternative. C'è poi anche quella gloria italiana che è la legge 413 del 2003 sull'obiezione di coscienza degli studenti e dei ricercatori. L'essenziale e rendere anche effettivo il diritto già formalmente valido, che nell'insieme non è male. Comunque il gruppo lavora con apertura mentale e spirito di dialogo. Eventuali opinioni dissenzienti verranno menzionate nel documento conclusivo accanto a quelle maggioritarie. Il tutto mi sembra approvabile ed è importante che i cittadini ne conoscano l'esistenza. Experiments don't make sense. We're getting nowhere with truth. dopo la rubrica centrale della nostra trasmissione a cura di Lorenzo Guadagnucci con ospite il professor Luigi Lombardi Vallauri, arriviamo alla quarta notizia della settimana che prendiamo da dedalomultimedia.it del 5 novembre scorso. Il WWF ha annunciato il decesso di una giovane aquila del Bonelli causato da un colpo di arma da fuoco. Il suo corpo, rinvenuto il 31 ottobre scorso, è stato crivellato da almeno 60 pallini di piombo sparati da un fucile. Il ritrovamento è stato possibile grazie al trasmettitore satellitare GPS GSM che l'aquila indossava dal giorno del suo involo dal nido avvenuto nella primavera del 2017. Da allora il rapace, che era stato chiamato Rocco, era costantemente monitorato e i suoi tracciati satellitari venivano scaricati ogni giorno. L'aquila in circa 3 mesi aveva percorso circa 20.000 chilometri, spostandosi principalmente nella porzione centro-settentrionale e meridionale dell'isola, dove ormai si stava stabilendo. Prossima alla maturità sessuale, l'aquila Rocco avrebbe presto fornito dati preziosi per l'approfondimento della biologia e dell'etologia della popolazione siciliana di quella specie, oggi fortemente minacciata. Quest'uccisione si aggiunge a quelle di molti altri rapaci in Sicilia e in Sardegna. Si tratta di informazioni, queste, relative soltanto ad animali monitorati, il che significa che il bilancio reale, ossia relativo ad animali non marcati e quindi non rilevabili, è ben più grave. Senza alcun dubbio si tratta di atti dolosi, perché questi rapaci sono inconfondibili e quindi nessuno può scambiarli per delle specie cacciabili. La perdita di giovani individui dovuta al bracconaggio è un fatto gravissimo che rischia di vanificare gli sforzi che si stanno mettendo in atto per conservare le popolazioni italiane di questi rapaci. E vola con le aquile la ricetta di cucina di oggi, curata dal nostro fedelissimo tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico gastronomico, il Pasto Gentile. Non prestare orecchio alle menzogne, non farti soffocare dai maligni, non ti nutrire di invidie e gelosie. La sfida di oggi è quella di trovare una ricetta ispirata alle aquile, al loro volo, alla loro regalità. Ed infatti è proprio dall'aquila, capoluogo abruzzese, che arriva questa ricetta tipica nata vegan. Crocchette abruzzesi di ceci al forno. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di ceci essiccati, 125 ml di acqua, una carota, una cipolla media, un pomodoro, uno spicchio di aglio, prezzemolo tritato finemente, del peperoncino, qualche foglia di alloro e olio extravergine di oliva. In silenzio soffro i danni del tempo, le aquile non volano a stormi, vivo il rimpianto della via smarrita, nell'incerto cammino del ritorno. Lasciate i ceci in ammollo con le foglie di alloro per 24 ore. Quindi scolateli, sciacquate bene e fate cuocere in una pentola coperta con l'acqua, la carota, il pomodoro e la cipolla. Fate cuocere per 2 ore e mezza a fuoco medio-lento. A questo punto tritate il tutto con un frullatore ad immersione o col passatutto. Aggiustate di sale e peperoncino, quindi fate ritirare a fuoco lento fino ad ottenere un impasto piuttosto compatto. Aggiungete l'aglio ed il prezzemolo tritati finemente e 2 cucchiai di olio extravergine. Con le mani leggermente inumidite formate delle polpette tonde che schiaccerete ai poli. Sistemate in una teglia con carta forno e fate cuocere a 180 gradi per 15 minuti circa. Servite calde con un filo di olio extravergine a crudo. In silenzio soffro i danni del tempo. Le aquile non volano a stormi, vivo il rimpianto della via smarrita, nell'incerto cammino del ritorno. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, casa editrice Newton Compton. We'll be right back. E siamo arrivati alla quinta e ultima notizia della settimana, che prendiamo da Corriere.it del 12 novembre scorso. Il titolo spiega già tutto. Animali lasciati morire e cisterne del latte invase dagli insetti. Il blitz dei carabinieri nell'allevamento horror. La firma di questo articolo è quella della nostra collega, amica e cofondatrice della trasmissione, Beatrice Montini. Vacche dal latte in agonia, lasciate morire, bovini malati, infestati da vermi e stagnanti nei loro escrementi. E ancora, cisterne di raccolta del latte invase da blatte, fosse comuni con decine di animali. È l'orrore che hanno trovato i carabinieri forestali di Brescia dopo una denuncia dell'associazione LAV in un allevamento italiano del Cremonese. Per una trentina di bovini, spiegano i militari in un comunicato, è stato disposto il sequestro, mentre circa 400 sono stati sottoposti a fermo sanitario. La LAV si è rivolta al neo ministro della Salute Speranza chiedendo urgenti provvedimenti, tra i quali un piano straordinario di controlli. Ma è bene far notare e sottolineare che i controlli delle ASL sanitarie negli allevamenti sono già obbligatori. Quindi viene da chiedersi come possa accadere qualcosa del genere quando le ASL sanitarie hanno già l'obbligo di verificare la condizione in cui gli allevatori operano. Ce lo chiediamo perché gli allevamenti non sono dei luoghi invisibili, insomma sono luoghi grandi, ben riconoscibili, emettono anche odori assolutamente peculiari e non confondibili con altre attività. Il sospetto è che dei corpi e delle agonie implicate nella produzione di latte e di altri prodotti animali non importa assolutamente nulla a nessuno. Si parla infatti di corpi che non contano, citando il bel libro di Massimo Filippi di qualche tempo fa. Tra l'altro, il menefreghismo e il cinismo con cui si censura sistematicamente lo sfruttamento degli animali sono gli stessi con cui si raggirano anche i consumatori, cioè i soggetti ai quali sono destinati i prodotti di questo scempio. Sapete già qual è la nostra proposta. Noi come redazione sosteniamo da tempo che non sentirsi complici dello sfruttamento e della schiavitù animale è possibile attraverso la scelta di una alimentazione naturale senza crudeltà. Dal 2012 infatti vi proponiamo ricette vegane nella nostra rubrica di cucina Il Pasto Gentile, e digitando questa parola chiave nello spazio per le ricerche del nostro blog restiamoanimali.it troverete decine e decine di ricette facili e gustose. Siamo con questo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, che è la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 512 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.